Respiro. Da Laura Bettini un ben ritrovati per questa nuova puntata di Respiro. Hanno recentemente aperto a Nerviano, provincia di Milano, i cantieri della prima Passivon italiana con recupero conservativo, ovvero la prima ristrutturazione di un edificio, in questo caso una cascina dell'Ottocento, che oltre a essere in completo equilibrio per quanto riguarda la produzione di CO2, è anche in grado di vendere energia elettrica in esubero alla rete. Siamo quindi nella fascia più alta delle costruzioni ecologicamente sostenibili. Anzi, costruzioni con queste caratteristiche sono tre in tutto nel nostro paese e quella di Nerviano, quando ci sarà la più grande. Qui, tanto per fare un esempio, non ci sarà gas per il riscaldamento né per cucinare. I termosifoni funzioneranno con l'acqua calda fornita da pompe di calore elettriche connesse a boiler solari, mentre per la cucina si useranno piastre a induzione. A far decollare il progetto è stata Italian Application con RTR and Partners. La prima è una struttura che svolge un'attività di mediazione tra aziende e ricerca scientifica e tecnologica. RTR è invece l'impresa edile che realizza il cantiere di Nerviano. È un gruppo di specialisti, progettisti, artigiani e installatori coordinati dall'architetto milanese Roberto Tarantini, che ha fondato questa società ad hoc per riuscire a dar vita a questo progetto. All'estero ormai questi edifici ad alto risparmio energetico cominciavano a diventare una realtà anche a livello governativo con programmi eccetera. Abbiamo pensato che era giusto anche cominciare a portarli anche in Italia e quindi abbiamo parlato di questo a Italian Application, i quali ci hanno dato delle indicazioni su come procedere, diciamo, a livello anche di consulenza scientifica, di apporto culturale, no? sul sistema delle conoscenze necessarie, e nell'arco di 2 anni circa abbiamo investito tutte le nostre risorse, sia di persone che economiche, proprio per arrivare a essere capaci di costruire degli edifici ad alto risparmio energetico, che sono le case passive. Insomma. Mm-hmm. Le chiedo a questo punto di definire il concetto di casa passiva. Sì, le case passive sono degli edifici che, oltre al valore formale e funzionale, diciamo, mettono a disposizione una serie di tecnologie che consentono di effettuare dei grandissimi risparmi a livello energetico, dando comunque, diciamo, un comfort ambientale interno pari a quello delle case tradizionali. Queste esperienze nella trasmissione Respiro le abbiamo affrontate qualche volta, si trattava però di edifici nuovi, qui c'è il recupero conservativo, che difficoltà vi ha posto? Ecco, nel caso di Nerviano il fatto che abbiamo trattato il problema sul risanamento conservativo è stato, diciamo, un po' un caso, anche perché l'oggetto che noi avevamo a disposizione era un fabbricato esistente. Ed anche piuttosto antico, tutto sommato. Ad essere una casa passiva è partita anche perché abbiamo considerato alcuni valori che riguardano i consumi energetici globali della. Faccia conto che il 40% dell'energia necessaria al nostro paese dipende proprio dagli edifici esistenti, quindi ci siamo detti: se noi troviamo una soluzione sulla ristrutturazione e riusciamo a portare un edificio esistente ad essere una casa passiva e addirittura una Energy Plus, cioè un edificio che produce più energia di quella che consuma, probabilmente riusciamo a fare un'operazione molto importante sia per l'utente, cioè chi potrà acquistare questi edifici, perché si troverà a non pagare più le bollette praticamente, avrà un rendimento, un ricavo dall'impianto fotovoltaico, quindi nell'arco di un trentennio abbiamo calcolato che l'edificio quasi si ripaga da solo. L'altro vantaggio è quello della comunità, cioè non si acquista più petrolio o energie da fonti non rinnovabili e quindi ovviamente il sistema economico ne trae dei grandi vantaggi. Qualche esempio di intervento che porterete a Nerviano? Innanzitutto abbiamo degli involucri molto performanti. Poi abbiamo introdotto per esempio dei concetti di risparmio sull'impiantistica elettrica, per esempio. Spegniamo la luce automaticamente quando la persona esce dalla stanza per più di 20 secondi, per esempio. Dove non c'è abbastanza luce abbiamo inserito i light tubes, che sono dei tubi che prendono la luce dal tetto, la riportano per circa il 93% diciamo dell'efficienza fino alla stanza che deve essere meglio illuminata. Recuperiamo le acque meteoriche, parte delle acque grigie, cioè quelle da per esempio rubinetto, da lavabi o da doccia o da vasca, dalla stoviglie. Ma questi interventi poi quanto andranno a incidere sul prezzo finale, no, di vendita degli appartamenti, che sono 22, vedo? 22, sì, esattamente. Ma guardi, diciamo che grosso modo in generale possiamo dire che un aumento dei costi c'è, non è che non c'è, ma questo riguarda un po' il processo di progettazione, tutta la filiera, diciamo, quindi direi che dalla progettazione alla realizzazione effettivamente da un 10 a un 20% di costi in più ci sono. Questo però non è detto che devono per forza riflettersi sul costo dell'immobile, dipende poi da come viene gestito il cantiere, poi da come sono gestite le forniture e dal know-how dell'impresa, insomma. Quindi direi che a parte l'impianto fotovoltaico, che sicuramente questo è a parte, ma anche perché poi è un rendimento finanziario effettivo, la costruzione, diciamo, il prezzo di mercato può anche allinearsi ai prezzi medi, medio-alti di una zona. Ecco, io ritengo che sia possibile fare così e noi lo stiamo facendo. Perché Italian Applications, che come dicevamo è una società di consulenza che fa da ponte tra ricerca e impresa, si è imbarcata in questo progetto? Nicola Zanardi è amministratore delegato di Italian Applications. La cosa interessante secondo noi era che innanzitutto c'era la possibilità di mettere insieme una serie di competenze che fossero legate a volte al saper fare quasi antico e invece ai più moderni software per appunto valutare e implementare dei concetti legati all'emissione zero e a tutte quelle che sono appunto tutti diciamo il divenire della costruzione, anche, e questo è la caratteristica, la peculiarità di Nerviano, su edifici esistenti, per cui Nerviano sarebbe determinante intervenire su quelli esistenti, visto che il parco è immenso. Sì, assolutamente sì, e considerando anche che stiamo parlando di percentuali infinitesimali di interventi di questo tipo. Noi eravamo partiti con delle idee bellicose un paio d'anni fa, presentandoci addirittura all'Associazione Nazionale dei Costruttori, di fatto trovando anche una certa disponibilità teorica, poi però è chiaro che dal dire al fare in questo paese ne passa. Infatti voi scrivete proprio sul sito: dopo una non breve ricerca, insomma, delle condizioni operative, ecco, ce n'è stata. In quel caso lì poi c'è un altro capitolo che meriterebbe un approfondimento anche rispetto a quello che è successo poi negli ultimi mesi dal punto di vista della situazione finanziaria e economica nel mondo, che il credito è stato molto difficile da trovare. Siccome noi in questo caso abbiamo anche fatto una specie di accompagnamento in questa direzione, abbiamo trovato delle esitazioni abbastanza anche curiose, nel senso che in un paese come il nostro, che ha comunque sempre legato una parte dell'erogazione del credito al mattone, nel senso più nobile del termine, anche in questo caso è bastato parlare di innovazione in questo settore per trovare subito qualche difficoltà. Poi alla fine invece un istituto di credito tra i più grandi in Italia, che in teoria spesso si parla di questi istituti come piuttosto elefantiaci, invece è stato molto rapido e veloce nelle decisioni ed è stato quello che ha determinato poi l'avvio di questo cantiere. Quindi uno dei primo forse maggiore problema è stato quello del finanziamento anche di questa operazione. Diciamo che mi domandavo se era più un problema di denaro, diciamo, che di tecnologia, ecco. Sì, assolutamente sì, ma questo noi diciamo lo verifichiamo in molti dei nostri progetti, cioè nel senso che in questo momento tutti parlano nei convegni di innovazione, ricerca e innovazione, e ognuno poi dopo sa che la stessa nostra società, se noi non avessimo rischiato per conto nostro, diciamo che il credito, andare a parlare di una società che di fatto seleziona buone idee per essere un pochino generalisti e poi le fa diventare applicazione, voleva dire, cioè, semplicemente trarre delle porte in faccia, come abbiamo trovato ovviamente. Adesso no, è un po' diversa la situazione, però poi il sistema creditizio e dell'erogazione del credito rispetto all'innovazione, credo che se non passa attraverso meccanismi istituzionali che però burocratizzano tutto il processo, per cui da appunto garanti istituzionali o fondi più o meno destinati e più o meno a pioggia, è difficile che, come dire, trovi spazio con grande velocità. È una mentalità che secondo noi dovrà assolutamente cambiare, perché non si può farne a meno, però in questo momento è così. Insomma, Nerviano, diciamo, è stato uno scoglio molto difficile da questo punto di vista, anche perché questo noi lo verifichiamo con tante situazioni in cui stiamo operando. In realtà molto spesso quando si parla di tecnologie, è vero, ci sono tecnologie che saranno pronte tra 10 anni, ma ci sono un sacco di tecnologie che sono pronte adesso e che aspettano solo di avere un sistema imprenditoriale e anche un sistema che sia pronto a recepirle. Ed è tutto anche per questa puntata. Maggiori informazioni, se le desiderate, le potete trovare a questi indirizzi internet: www.italianapplications.com oppure www.energiazero.org. Adesso c'è il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.